si chiama Dacia Duster, sarà lanciato, presentato al pubblico il prossimo fine settimana. Vuole sfidare, in un momento complicato del mercato in questo segmento, vere e proprie corazzate come la Nissan Qashqai oppure l'X35 di Hyundai o la Ford Kuga o il Volkswagen Tiguan. Dacia Duster dunque al centro del nostro riflettore. Noi abbiamo il piacere di ospitare il direttore comunicazione e immagine di Renault Italia, Andrea Baracco. Buona domenica Baracco, grazie per averci raggiunto. Buona domenica a tutti i radioascoltatori. Allora, quali sono le caratteristiche più importanti della Duster? Ma direi che le caratteristiche del veicolo sono innanzitutto di essere disponibile in due versioni, sia con una versione 4x4 sia con una versione 4x2, per soddisfare quindi delle esigenze che possono essere differenti a seconda dei clienti. L'altra caratteristica è di avere due sole motorizzazioni in Italia, quindi è molto semplice, come dire, poter scegliere un motore 1.6 benzina da 110 cavalli e un motore 1.5 gasolio sempre da 110 cavalli, e come è caratteristica di tutte le vetture Dacia, poter godere di una grande abitabilità a bordo e di un rapporto qualità-prezzo eccezionale.